dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Diciamo, non è sicuramente solo calcio, anche perché in questo momento io vorrei continuare sempre a seguire il calcio giocato, in questo caso tipo l'Inter, il Chievo e via dicendo. In realtà in questo momento è solo calcio. Sì, soltanto calcio, però in realtà calcio perché c'è l'Inter e il Chievo che sta giocando, poi dopo c'è la Coppa d'Africa che è appena finita, siamo già lì con lo champagne che festeggiamo, tappi che volano, succede di tutto, e ha vinto la Nigeria, diciamolo perché va detto. Burkina Faso purtroppo non ce l'ha fatto. Era battuta questa. No, non è battuta, è l'autore del gol della Nigeria. Lo dico, cari ascoltatori, Luca Gattuso che ha fatto questa battuta, non l'ho fatta io, voglio dire, perché Luca Gattuso che dice Mba perché è quello che ha segnato, esatto. Quindi si chiama Mba e allora faceva. Ripeti questa battuta, Mba. Che vorrei tenerla. Per fortuna posso scaricare il podcast. Esatto, Mba. Come sarà stata sta partita? Mba. Vabbè, 1-0 per la Nigeria, ha vinto Luca, la Nigeria. Io capisco che ti vengono poche battute, però non è il caso di ripetere quando ti vengono, perché magari se poi sono brutte, no, cioè, capito, diventa anche un tormentone. 3-1 per l'Inter, dominata ormai questa partita. Guarda che può succedere di tutto, questo non è un Chievo che si arrende. Andiamo a dare, facciamo il servizio per i fantacalcisti che ci sono all'ascolto, vai. Cassano, Ranocchia, Milito e Rigoni per quanto riguarda il Chievo, questi sono i marcatori. Se vogliamo proprio essere fantacalcisti fino in fondo, diciamo che Ranocchia e Rigoni, due dei marcatori, sono anche stati ammoniti, quindi mezzo punto. Pensavo che venissi ammoniti. Volevo dire mezzo punto in meno. Devo fare così. Tutto bene. Scusa, rifacciamo l'attacco perché è venuta male. Ci hai parlato sopra il pezzo di rock. Ma perché parli sempre sopra il pezzo di rock? Perché allora sai come, a noi che piace il liscio, il rock è un po' così, non ci piglia. Ma tu sei bene. Per il liscio saltellato emiliano, c'è cioè quello allegro o quello triste invece piemontese? No, liscio saltellato emiliano. Però attenzione Chievo, niente. È finita la partita di Milito. Ma peccato, dai, così. Così applaude con i suoi guantini. Deve fare molto freddo a San Siro perché c'è la gente, sai, in quelle situazioni in cui tieni le gambe strette, tieni le mani proprio chiuse con il cappuccio tirato su che ti copre le orecchie, ecco. E questa è la situazione di San Siro del pubblico in questo momento. Stramaccioni sorridente abbraccia Milito, gli danno la giacca a vento e via. Vabbè, adesso vuoi proprio fare la radio cronaca minuto per minuto, insomma. No, anche questo. Adesso tra l'altro lui esce fuori, però si sente dei brividi di freddo e via dicendo. Brividi di freddo che sentirà ovviamente quasi tutta Italia, in particolare al nord, dove tra l'altro si attendono nevicate e poi nevicate, cioè e poi? Allarme ovunque da questo punto di vista, e quindi diciamo che anche noi, se c'è qualcuno che vuole già cominciare ad annunciarci, guardate, qui comincia già a nevicare. Se vedete i fiocchi, se siete lì, aprite la finestra e vedete il fiocco, siete in viaggio, 800 24 00 24 800 24 00 24, potete tranquillamente telefonarci e cominciamo già subito a parlare di questo e di queste cose, e soprattutto parliamo di neve. No, se piove no, non vale, soltanto neve, accettiamo solo fiocchi qui a Dai Vai questa sera fino alle 23, siamo in onda su Radio 24. Ecco, vabbè, allora però nel frattempo, visto che dato che c'è la partita che sta andando tranquillamente, lasciamola andare per quello che è, e tra l'altro 3-1, cosa vuoi dire? Sì, no, infatti ormai già nei libri di storia sono 3 punti per l'Inter, 0 punti per il Chievo. Andiamo nel non è solo calcio, c'è l'altra parte della trasmissione, e andiamo direttamente a parlare di volley femminile. giusto? Sì, perché ci sono dei problemi economici particolarmente seri per quanto riguarda le... Non dirlo con quel tono che mi agiti, però. Davvero? Sì, cioè, con calma, però dillo. Vai. Ci sono dei problemi economici particolarmente seri per quanto riguarda il volley femminile. Si parla addirittura di ritiro di due club dalla Serie A, si parla di società che hanno difficoltà a portare avanti la stagione, e quindi ne parliamo con il presidente della Lega Volley Femminile. Mauro Fabris, pronto? Pronto. Allora, vogliamo parlare di questi problemi seri del volley femminile che tanta e tanta gioia ci ha dato noi italiani, diciamolo, no? Che problemi ci sono? Oddio, c'è una crisi mondiale e quindi anche noi paghiamo dazio. Ah, così, come partiamo da lontano. Sì. Però siamo già arrivati. Dalla Morgan e via dicendo, la cascata, sì, insomma. Sì, la sintesi è tutta lì. Sì, abbiamo avuto dei problemi quest'anno, purtroppo un po' come... devo dire un po' tutte le discipline, insomma, no? Sì. E nel nostro caso particolare c'è stato anche qualche sciagurata, poi non so come chiamarlo, che ha cominciato la stagione, qualche società, insomma, non avendo coperto tutto il bilancio prima di partire. Questa non è una cosa che ci ha fatto piacere, insomma. Comunque, il risultato è che, come avete annunciato voi, abbiamo avuto due società che si sono ritirate dal campionato, di A1, mentre in A2... Quali sono? Sono Modena e Crema. Tra l'altro Modena è una storica piazza della pallavolo italiana. Sì, detta anche la capitale, insomma, della pallavolo italiana per tanti motivi. E, quest'anno purtroppo è andata così, lì a Modena come a Crema, che è invece una neopromossa. Aveva fatto 6 anni di percorso netto, diciamo, cioè partendo dalle serie inferiori arrivati in A1, e poi purtroppo lì un qualcosa che riguarda, è un po' più extra sportivo che sportivo, insomma, nel senso che il patron, diciamo, di Crema ha avuto qualche problema aziendale molto serio e quindi è mollato. Anche la società è andata così. Su Modena invece forse con un po' più di avvedutezza, insomma, prima di partire si poteva evitare la cosa, ma loro avevano uno squadrone che costava molto e niente, complice anche un po' di difficoltà locali legate alla questione del terremoto, hanno perso tantissimi sponsor locali. E quindi il risultato purtroppo è stato questo. Ecco, Fabris, lei ha esordito dicendo c'è qualche furbetto che ha iniziato la stagione non avendo la copertura finanziaria. Sì. Ma non è compito o della federazione o della Lega di controllare che queste cose non avvengano, quindi sì, anche vostro? Assolutamente, noi abbiamo fatto in tutti questi anni una serie di inasprimenti, diciamo, per le norme di ammissione al campionato. Modena l'anno scorso, che sostanzialmente aveva questo squadrone, non aveva dato problemi, quindi si era presentato al NATO di partenza con il 70% dei stipendi pagati come noi obblighiamo, con fideiussioni sottoscritte, con tutto quello che noi avevamo stabilito in questi anni, e segnalo che noi siamo stati tra le prime, diciamo, discipline a combattere quello che noi chiamiamo il doping amministrativo, certo. Cioè il fatto che molte società in passato partivano, magari non pagavano gli stipendi durante la stagione, condizionavano i campionati. Abbiamo avuto dei casi eclatanti di neopromosse dalla 2 che addirittura, insomma, vincevano il campionato della Coppa Italia di A2 e poi si scopriva che non avevano liquidato gli stipendi. E quindi per evitare questo doping noi in 6 anni abbiamo inasprito molto le regole, tant'è che circa una 30 di club non sono stati ammessi o a fine stagione, insomma, li abbiamo portati a ritiro, diciamo. Ecco, però questo è il passato, ma questo il futuro? Il futuro adesso, come si riesce a uscire fuori da questa crisi? Cioè, che cosa attendete oppure che cosa volete? No, diciamo, intanto, nonostante questi fatti negativi registrati quest'anno, devo dire che c'è stata una mutazione genetica negli ultimi, appunto, 5-6 anni, almeno in Serie A1, nel senso che si sono affacciati nuove realtà, nuovi patron, pensiamo a Busto Arsizio, pensiamo... Sì. A Villa Cortese, pensiamo a Piacenza per rimanere in Lombardia, oppure appunto a Conegliano che è risorto nel giro di un anno, o altre ancora che hanno costruito delle realtà molto solide. Yamamai Busto Arsizio gioca mercoledì in Champions, per dire, e, insomma, facciamo gli scongiuri, potrebbe essere una delle 4 finaliste, come abbiamo avuto l'anno scorso con Villa Cortese, sì, appunto in Coppa Europa. Quindi che cosa facciamo? Vogliamo intanto che tutti si mettono in testa che non è obbligatorio fare l'A1, quindi chi viene a giocare in A1 deve avere le condizioni per essere, appunto, almeno in A1. E dunque penso che per l'anno prossimo ovviamente cambieremo, d'accordo con la federazione, ancora le nostre norme, e quindi chiederemo, ad esempio si sta discutendo su coperture assicurative tali per cui in caso di situazioni difficili come quest'anno Quindi in realtà c'è stata una crisi, ma la crisi è stata da salutare anche per certi versi. Sì, ecco, è brutto dirlo, ma purtroppo è, anche questo è successo, cioè, e abbiamo lavorato in questa direzione, perché insomma le società che dicevamo prima sono saltate perché abbiamo introdotto i controlli di metà stagione, prima non c'erano, e quindi devono dimostrare a metà stagione di aver pagato gli stipendi. Due di queste società, Crema e Modena, come dicevamo prima, non sono stati in grado di ottenere dalle atlete le liberatorie che noi chiediamo alle atlete per appunto avere la garanzia che tutto sta procedendo regolarmente, e quindi sono saltati perché non sono riusciti poi a recuperare il deficit che avevano accumulato. Questo è il quadro. Noi la ringraziamo. Insomma, come ha detto lei, la pallavolo ci ha dato tante soddisfazioni, ce le sta dando. Perché, insomma, e ce le darà, no, ovviamente, in questo caso. Assolutamente sì, abbiamo vinto il mondiale nel 2011, nel 2012 anno a ottobre, poi nel 2011 scusi, poi alle Olimpiadi non è andata come ci aspettavamo, ma insomma i maschi sono arrivati terzi. Però intanto non è male cominciare a sperare nelle cose belle, no? Cioè, voglio dire, c'è una squadra, potrebbe avere il massimo, poi non la dà, ma questo è un altro discorso, insomma. Però nel frattempo abbiamo la possibilità di sperare in qualche cosa di bello. Sì, ma noi abbiamo palazzetti strapieni, è uno sport che vabbè, a parte essere, per quanto riguarda le donne, il primo sport tra le ragazze, due terzi della federazione sono degli iscritti, sono appunto donne, ma insomma abbiamo piazze come Busto che fare regolarmente i 5.000, come Conegliano che pur non essendo ai primi posti riempie sempre. Ci scusi Presidente, noi adesso dobbiamo lasciarla perché sta arrivando il traffico nel frattempo. Ah, che temevo ci sta... la neve. No, la neve sicuramente arriverà, adesso abbiamo detto talmente tante volte che arriva la neve, deve arrivare a questo punto. Grazie intanto per la disponibilità, a presto! Saluti, grazie. Dai e vai. Strade in diretta. Confermato l'arrivo di una forte ondata di maltempo, stop ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate in tutte le regioni del nord e in Toscana, Marche e Umbria. In seguito a questa ordinanza sulla 32 Torino-Bardonecchia code per lo stoccaggio dei tir alla barriera di Salvertran in direzione del Frejus. Al momento nevicate di debole intensità sulle Alpi al confine con la Francia e tra Basso Piemonte e Liguria, neve anche sul basso versante adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. È tutto, ci risentiamo più tardi. Dai e vai, non è solo calcio. Dunque, 824-0024, e volevo ripartire, fare la doppia partenza, oppure la falsa partenza, 824-0024, oppure per quelli timidi, 349-238-6666. Cioè, l'SMS per quelli timidi. Sì. Scusa, mica parlano. Diciamo, quelli poco radiofonici. Esatto, quelli che hanno la brutta voce. Sì, magari. Quelli che proprio danno fastidio quando telefonano. Insomma, ecco, 349-238-6666. 824-0024. Marcello, pronto? Pronto. Eccoci. Allora. Eccoci, buonasera. Sta nevicando lì? No, qui no, io non mi trovo sul raccordo di Roma, ma devo tornare a casa mia che vado circa 600 metri d'altezza. Qua sono 2 gradi centigradi, mi segna la macchina, ho percorso diciamo la casilina da sud verso Roma, lì era anche a meno 2 in alcuni tratti. Sì, vabbè, fa freddo ma non nevica. Qui non nevica, chissà quando arrivo a casa, io arrivo a 600 metri, Monti della Tolfa, quindi... Marcello, se nevica lì ci chiami di nuovo. Ti chiamo sicuramente. Grazie. Dici. Compagnia, mi tenete... anche con uno sport, gli sporti minori, va bene che se ne parli. Adesso, meno male che ha messo giù il dottor Fabris, cioè, sport minore. Io sono un amatore podista, faccio ogni tanto pure qualche maratona. Mi veniva un'idea, ma noi così dilettanti spendiamo anche, diciamo, per diletto dei soldi, però facendo chi fa sport, diciamo, che almeno per le malattie cardiocircolatorie, è meno soggetta a queste malattie, ma non potremmo detrarre dalle nostre tasse queste una proposta un po' provocatoria. Ma non è provocatoria, è col braccino corto che ti ritrovi, scusa, che fai queste proposte, scusa, siccome corro tanto, sono sano, e quindi scalo le tasse. Noi non, siamo soggetti a meno malattie cardiovascolari, questo è sicuro. Va bene, quindi faccio la detrazione. Va bene. Senti, da voi non nevica. Una battuta provocatoria. Ti ringrazio, anche la nostra. Ciao, ciao, Marcello. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ecco. Vabbè, niente, Marcello non nevica. Fosse stato no, Marcello non nevica davvero. Esatto. È Roma che non nevica e Marcello ce l'ha avvisato. Luca! Ciao a tutti amici, siamo qua in provincia di Genova, a Busalla, e nevica parecchio ragazzi. No, attenzione, a Busalla nevica, siamo a 350 metri sul mare e belin belin se nevica ragazzi. quindi già, tu sei a casa? O sei in no, sono in macchina perché sono andato a trovare un po' di femmine, capisci com'è. Va piano adesso, tanto va piano in tutti i sensi, tra le altre cose. Sì. Però no, voglio dire, auricolare, non vi preoccupate. 824 0024 per altre nevicate, per monitorare l'Italia sotto la neve, è quello che sta andando. Insomma, quanto c'hai lì a fianco a te? Cioè 20 centimetri? Meno uno e nevischio bello forte. Ah, solo nevischio per il momento però. No, è neve, cioè nel senso è una nevicata di quelle che attaccano già. Ma sei in autostrada o su strada statale? Sono sulla strada statale dei Giovi. Catene o gomme da neve? Gomme invernali. Sempre, ormai vabbè. Siamo abituati qua, siamo ogni anno così. Ecco, vabbè, intanto Palacio stava per segnare, non so se è la cosa ti può interessare. No, però non ma noi abbiamo vinto 3-1 contro la Roma. Ma vieni, fratello brucerchiato, vieni. Vai, buonanotte, siamo fregati. Va bene, grazie, ciao Luca. Ciao a voi, buona serata. Grazie anche a te. Ecco, tutti quindi. Luca sono brucerchiati, ricordiamolo stasera. Adesso non esageriamo. Vabbè, 2 su 2, il 100%. No, come ti ho detto, non esageriamo. Ci sono anche i Luca che non sono brucerchiati e che si trovano in giro. Comunque Palacio vicino al gol, batti ribatti ancora una volta in area, però il Chievo ha tenuto botta. Più Pugioni che il Chievo, mi verrebbe da dire. Ha fatto 2 interventi miracolosi su Palacio, che ha recuperato palla dopo una deviazione, ha tirato in porta di nuovo, è riuscito a parare di nuovo Pugioni. Sempre 3-1 per l'Inter, siamo al 34esimo, 3-1 Chievo sta vincendo l'Inter. Cassano Ranocchi ha milito i marcatori dell'Inter e Rigoni per quanto riguarda il Chievo. Sempre Genova, pronto? Sì, buonasera Pablo, ti seguo per radio sempre, allora ci tengo a darvi un aggiornamento visto che lo chiedete. Sì, sei anche tu a Busalla? Come? Sei anche tu a Busalla? No, arriverò fra poco, adesso sono a Vignole Arquata che è circa 25-30 km da Genova, sto andando in direzione di Milano. 0 gradi la temperatura, ma c'è un nevischio lieve, ma strade pulitissime. Ma tu stai andando verso Milano? Stai venendo verso Milano, giusto? Ho capito bene? Sì, sto andando in direzione Milano. Ah, vabbè, comunque, sei dietro in sala neve pesante, è dietro di te. Ah, ma io ne vengo adesso. E non c'è niente? No, attenzione, c'è nevischio, ma lievissimo, ma strade pulitissime. È giallo neve a Busalla adesso. No, giallo neve, no, assolutamente. No, magari Busalla, ho sentito quello che ha chiamato prima, 300 metri d'altezza, magari nevica di più, ma sono io sull'autostrada. Comunque tutto sereno sull'autostrada per il momento. Praticamente, insomma, si potrebbe tirar fuori. Va bene, no, grazie, ciao. Strada pulitissima, prego. Ciao, ciao, ciao, pronto? Pronto? Sei tu? Come si chiama? Luca? Luca? Pronto Luca? Luca, io l'unico Luca non blu cerchiato di questa sera. Ecco, esatto, Luca Cancellara. Eccoci qua. Luca Cancellara. Volevo darvi un aggiornamento meteo sopra Sensilio, per ora non nevica, ma fa un freddo boia. Ah, fa molto freddo? Decidete voi. Ti sei portato dietro un termometro, tanto per avere, al di là delle tue sensazioni, una temperatura reale? Oppure c'è lì attorno qualcuno che è in grado di dirti che quanti gradi ci sono, se siete sotto zero, sopra lo zero? Perché quelli in campo sudano, quindi non è che debba fare poi così tanto freddo. Io fuori sudo un po' meno, secondo me, tastando il mio naso, diciamo che forse siamo un 2-3 gradi sopra lo zero. Ti sento scientifico proprio nell'approccio. Sì. È un'applicazione scientifica. Senti, sei da solo? Fino a questo momento sì, nel senso che gli interisti probabilmente si stanno divertendo ancora sulle tribune dello stadio. Quando vincono sono così, loro. Sì, volevo consegnare il premio per il tifoso più annoiato ad un tifoso interista che ho incrociato circa 15 minuti fa venendo qui allo stadio, Marco, che era mogio, e gli ho chiesto: ma perché te ne stai già andando, state vincendo, una bella serata? No, mi sono stancato questa sera di stare allo stadio. Bene. Quindi abbiamo trovato un interista che, nonostante la vittoria, si era stancato di seguire la propria squadra. Secondo me era gelato. Lei se ne sta andando, contento di quest'Inter? Sì, va bene, ha giocato bene. Lei dove sta? In 20 minuti, no, però dopo ha giocato molto bene. Lei è di Milano o da fuori? No, sono di fuori ma vivo a Milano. Ah, quindi per ora il suo ritorno sarà limpido dalla neve, si prepari perché domani mattina arriva la grande nevicata. Sono da 2 anni che vivo a Milano, quindi so tutto. Ecco. Grazie. Vabbè. Ecco, un esperto di meteo. Luca, hai sentito questa prestazione di Inter questa sera? Sì, abbastanza, bro. Venite da Milano o da fuori? Da qua, vi prendere a casa. Ecco, si vergognano di dire che vengono da Milano, non capisco se questo... Voi vi vergognate di venire da Milano? No, stai parlando con noi? No, non ho capito se parla... No, scusa, ma il tipo di prima ti ha detto: mi fai andare a casa? Quali? L'ultimo? L'ultimo sì, era un po' rinfreddolito e anche scocciato. Infatti, sì, no, mi fai andare a casa, per cioè, favore. Nella sostanza ha detto: fatti la vecchia Bertuccia. Esattamente. Senti, pochi istanti fa hai sentito un boato da dentro lo stadio, che non boato sì, da gol, ma simile. Mi sembra di aver capito che Palacio era andato vicino al 4-1. No, corretto? No, ma c'è stato un altro boato perché Stankovic ha fatto il suo esordio stagionale, quindi gente in piedi, pubblico inneggiante a Dejan Stankovic, che è esordito in questa stagione nell'Inter dopo sì, il ma tu, quando accadono questi momenti qua, dammi una gomitata, io non mi perdo i grandi momenti di calcio di questa domenica. È stato un grande momento di Inter Chievo. Stankovic che rientra in campo. Esatto, era un tempo che li aspettavo. Ho visto gente sulle tribune e tu non te sei accorto perché sei un cuore duro, sì. Gente con la lacrimuccia, te lo dico. Vabbè, no, più che altro perché c'è un freddo cane, esatto. Tra le altre cose. Vabbè, ti dicevi 0 gradi? Assolutamente, sì, adesso saremo un grado circa. Va bene. Ma voi in studio è cominciato a nevicare o è ancora tutto limpido? Resta lì, te lo diciamo dopo la pubblicità. Dai e vai. Certo, avrei potuto semplicemente voltarmi e andarmene. Fare finta di niente, ostentare indifferenza. Avrei potuto dire a me stesso, non pensarci. Ma più me lo dicevo e più ci pensavo. Non me la sarei più tolta dalla testa. Sarebbe diventata un chiodo fisso. Il fatto è che non potevo perderla, perché ci sono occasioni che non si possono perdere. Nuova BMW Serie 1 3 porte, da 22.900 euro. Sapevate che i tagli nazionali ai bilanci delle province hanno ridotto del 66% gli investimenti locali? E che le province hanno nei loro bilanci 2 miliardi di euro per intervenire su strade e scuole, ma che sono bloccati dal patto di stabilità? E sapevate che permettendo alle province di pagare le imprese che hanno lavorato per loro, si eviterebbe il fallimento di migliaia di aziende e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro? A chi si candida a guidare il nostro paese, chiediamo di rilanciare lo sviluppo locale. Facciamo ripartire gli investimenti delle province. www.upinet.it. Ecco, e adesso lo sapete. dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Più giù, dai. Andrea a Padova, giusto? Sì, ciao. Lì nevica? Ciao, sono a Padova, sono in autostrada, fanno 0 gradi, c'è un ottimo spargimento di sale, per cui si corre abbastanza tranquilli e si prevede anche qui la neve. Ma c'è neve? Adesso niente, no, tutto, solo sale per il momento. Momentaneamente solo sale. Ah, è una leggenda metropolitana quella della nevicata, diciamo. Ma no, cosa stai dicendo? Smettila di dare notizie false, cioè, voglio dire. No, vabbè, quello là a Busalla diceva che nevicava, l'altro ha detto di no. Comunque qua c'è soltanto spargimento di sale. Nel frattempo Palacio a terra con dei crampi molto dolorosi. Ecco, questo non è che faccia granché testo, vabbè. Senti Andrea, tu volevi però parlare di sport minori? Esatto. Quanto minori? Perché io sinceramente il calcio non me ne intende, non lo seguo. Però visto che quindi puoi venire in trasmissione. Dici? No, proprio perché girano tanti soldi nel calcio e sinceramente è uno sport professionista. Non sarebbe meglio che la Federazione Italiana Sport potesse agevolare, aiutare di più questi sport minori? Perché c'è tanta gente che fa fatica e porta onore e gloria all'Italia, molto più del calcio, se vogliamo vedere da un punto di vista di medaglie raccolte in tantissime discipline e nelle Olimpiadi oppure anche a livello mondiale. Però questi sport qua dovrebbero essere più aiutati. Ma dammi uno sport minore che ti interessa. Io parlo del canottaggio. Sì, puoi parlare anche del canottaggio, va bene. Se vuoi, però voglio dire, non è che... No, ma scusa, tu stai dicendo che il calcio dovrebbe finanziare gli altri sport? Che un po'. Non voglio dire questo, però se avesse meno soldi il calcio e favorire gli sport minori... Guarda, dipende, penso molto, tanto il calcio ha tanti soldi, anche perché ci sono tante televisioni, c'è tante persone che ci vanno a vedere, tante persone che sono interessate e quindi c'è tanti sponsor. Di conseguenza ha tanti soldi anche per questo. Comunque i finanziamenti che arrivano dal calcio arrivano da dei privati, nel caso specifico le televisioni, che finanziano il calcio. Poi i finanziamenti, quelli che arrivano dal CONI, cioè dall'ente pubblico che vanno agli sport, vengono divisi in base ai risultati, tant'è vero che appunto il canottaggio, come l'atletica, il nuoto, ma anche la canoa, sono fra le discipline che ottengono maggiori finanziamenti. L'atletica la una volta. Beh sì, no, diciamo che atletica e nuoto hanno uno zoccolo duro che tengono, perché sono le due discipline olimpiche principali. È vero, certo. A livello di risultati negli ultimi anni ne hanno meno, comunque hanno discretamente dei fondi non ingenti, però ce li hanno, ecco. Ecco, ma non si può travasare, non si può togliere direttamente dal calcio per portare dall'altra parte. Grazie Andrea, no, ciao. Distribuire perché è meglio, sì, dai, quello si può. Ma non è così. Se ci sono milioni di persone che seguono il calcio, gli sponsor vanno dal calcio, hai capito? Se no andrebbero nel tiro con l'arco e questo è il problema. Comunque grazie, ciao, pronto, Ambrogio. Sei buonasera. Tu? Come buonasera. Va? Tutto bene? Abbastanza bene, complimenti della trasmissione. Tu sei a casa però, non sei in autostrada. Sì, no, sono a casa. Ah, ecco. Comunque ho guardato fuori adesso e nevica o non nevica. Niente? C'è 2 giorni che mettono una pressione, continua a dire che nevica. La pressione però mi sa che c'è, tra un po', perché comincia già a nevicare comunque. Genova l'abbiamo già sentita. Sì, un Busalla. Po'. Busalla. Busalla. Busalla. Tra l'altro, ecco, diciamolo, a Genova domani Imperia, Savona e Genova scuole chiuse. Quindi sono già contenti i ragazzi e gli studenti perché sono già state annunciate le scuole chiuse. Mentre lì a Lecco hai detto che non nevica. Si vedono le stelle o no? Ma che c'entra? Ma no, è importante questo, perché se si vedono le stelle non nevica proprio. Cioè, guarda là. Addirittura ci sono le stelle. Ecco, vedi? Vabbè, ragazzi, non è che siccome a Lecco non nevica, non nevica da nessuna parte, lo voglio dire. Cioè, poi tra l'altro l'allarme è, mi pare, Piemonte, Liguria e Toscana. Tra sì, le altre Piemonte, cose, Liguria e Toscana, eh? Parte della Lombardia, ma soltanto domani. Grazie, Ambrogio. Buonasera, grazie. Grazie, grazie. Buona serata anche a te. Oh, limite dell'aria. Un tiro da lontano. Comunque, Chievo ci crede. C'era Terò. No, stavi dicendo il Chievo ci chiede che cosa? No, il Chievo ci crede, nel senso che ha tolto Paloschi, ha messo Pellissier in campo, quindi sta giocando con Pellissier e Terò in questo momento. Siamo al 46esimo e 48 secondi, siamo nel recupero, 4 minuti di recupero, 3-1 per l'Inter, Schelotto in campo per l'Inter oltre a Stankovic, però il Chievo ci crede, secondo me ci crede con Pellissier in campo. Sì, allora abbiamo delle notizie su come è andata la partita oggi, cioè non la partita finale direttamente giù dalla Coppa d'Africa, sì, quello che mi interessava in realtà, la partita è come abbiamo detto. Aspetta, posso abbassare un attimo la televisione dà fastidio quando si parla, okay. Tra l'altro siamo al 47esimo, sta per finire tra le altre cose, e quindi a quel punto abbiamo completato anche la giornata del fantacalcio oggi. Esatto, ecco, in questo caso allora abbiamo detto fermo lì. Non mi muovo, stai dicendo qualcosa sulla Coppa d'Africa, ma posso dirla anche dopo? Possiamo dirla dopo? Sì. Ah no, ecco, perché in realtà adesso a questo punto possiamo collegarci con un servizio un po' particolare, perché ci ha un po' incuriosito questa situazione. Ci ha lasciato anche un po' così perplessi, perché diciamo, adesso, ma che mercato avrà tutto ciò, no? In questo caso. Però ne parliamo. C'è portierecalcio.it. Portierecalcio.it. Sì, punto IT. Sì, che è un sito, mi verrebbe da dire. Sai com'è? In questo caso, sì, è un sito ed è gestito da Gaspare Ressa. Pronto? Pronto, buonasera, Gaspare Ressa. Come stai? Tutto a posto, qui fa freddo, ma fortunatamente nel profondo sud non sta nevicando. Vabbè, aspetta a dirlo, perché poi arriverà anche lì, non ti preoccupare. Profondo sud dove di preciso? Siamo di Taranto, proprio Taranto città. Ah, hai capito. Cosa c'è di... No, niente, Taranto, la patria dei portieri di calcio. Ma no, dai. Ci piacerebbe essere. Sì, vabbè, allora raccontaci un attimo questa tua storia. Che cosa è successo? Cioè, perché tu hai aperto portierecalcio.it? Allora, prima di tutto siamo in due, siamo fratelli, sì. Io e mio fratello Francesco. Portiere Calcio è nato nel 2008, io terminavo una mia esperienza di webmaster, diciamo, non soddisfacente sul territorio, e mio fratello invece usciva da un master in marketing e comunicazione. Siccome entrambi eravamo portieri, siccome entrambi avevamo difficoltà ogni volta a procurarci il materiale, abbiamo iniziato a guardare su internet se ci fossero dei siti, abbiamo visto che si poteva fare un investimento e si poteva provare a vendere quello che noi cercavamo e non trovavamo online, e piano piano è nata Portiere Calcio. Nel 2008 abbiamo aperto, oggi siamo nel 2013, abbiamo 6600 iscritti alla nostra pagina su Facebook e migliaia di clienti che ogni giorno... Sì, sì, vabbè, questa è la pubblicità, però calmati, volevo capire bene, ma che cosa potete vendere come portieri? Cioè, allora, io capisco che, vabbè, cioè, i guanti, e fino a qua ci siamo, no? Le maglie. Vabbè, le maglie. Esattamente, allora praticamente come si vede il portiere veste sempre diversamente dalla squadra che, per cui difende i pali, quindi noi ci rivolgiamo al portiere perché ha bisogno di attrezzature particolari. Ma quali sono? Li abbiamo appunto citati, e quindi abbiamo, come esistono i pneumatici diversi da bagnato, da asciutto, esiste il guanto da portiere da bagnato, il guanto da portiere da asciutto, il guanto da portiere per chi ha avuto dei traumi alle mani e quindi ha bisogno di particolari protezioni, esistono anche maglie e pantaloncini con protezioni particolari che servono a prevenire infortuni oppure a proteggere parti infortunati. Noi siamo qui per questo e siamo sempre a disposizione sia dei portieri professionisti, sì, sia dei portieri amatori e dilettanti che hanno bisogno appunto di queste attrezzature che sono sempre più difficili da trovare nei punti vendita tradizionali. Questo l'abbiamo capito, che ci siete, però la cosa che vogliamo capire adesso a questo punto è, per esempio, guanti abbiamo detto, poi ci sono le magliette, poi ci sono che cos'altro potete vendere? Maglie, guanti, pantaloni, pantaloncini, abbigliamento intimo tecnico tradizionale, perché ci è capitato di lavorare con dei professionisti che sono tra virgolette costretti a indossare l'abbigliamento che fornisce la società, però non lo ritengono adeguato, quindi comprano da noi l'abbigliamento tecnico che mettono da sotto, le sottomaglie in maniera migliore, e in questa maniera possono così bypassare il problema appunto dell'abbigliamento della società e possono proteggersi, cosa che fanno tantissimi portieri che non possono mostrare appunto marchi che non sono quelli degli sponsor del loro club. Ecco, senti, Gaspare, finalmente potrei chiarirci una cosa, un dubbio che avevamo da tempo, da anni, e tu da esperto finalmente puoi chiarirci questo dubbio. Ma perché i portieri sputano sui guanti? Ecco, perché i guanti hanno il palmo in lattice, un mix di lattice naturale e di caucciù. Questo materiale ha bisogno di restare umido. C'è chi si porta la borraccia, c'è chi sputa sui guanti. L'importante è che il materiale del palmo sia sempre umido. Perché? Più il materiale è umido, più diventa adesivo e quindi riesce a bloccare meglio il pallone. Ah, quindi diventa ventosa praticamente. Assolutamente. Ah, sì. Capito. Adesso vedi che riusciamo già a capire. Mi viene un dubbio. Perché sputano sui guanti anche quando piove? No. Questa diciamo che può essere un tic nervoso. Esatto. Ammetto di farlo anch'io, perché nel mio piccolo, a livello dilettantistico, nonostante abbia 38 anni e tanti acciacchi, continuo a giocare. È una cosa che uno fa anche per via nervosa e normalissimo, cioè non c'è niente di male, di certo il guanto continuerà a prendere anche se inzuppato, se è un guanto di buona qualità. Ecco, abbiamo visto sul catalogo che avete sul sito, il paio di guanti che costa di più costa 125 euro, ma cosa fa? Sì. Para da solo quello? Magari. Cioè tu ti metti dietro e lui fa tutto da solo, 125 euro un paio di guanti? Sì. Esistono, sono guanti particolari con delle protezioni che servono appunto ad evitare dei traumi alle dita. Sì. Sono delle vere e proprie stecche di plastica che sono nascoste nel corpo del guanto. Chiaramente più aumenta la qualità del guanto, più ne aumenta la tecnologia, più sale il prezzo. Però non è detto che un guanto che costa di meno serve meno un portiere. Ogni portiere ha delle esigenze particolari e noi abbiamo appunto guanti a partire da 25 euro fino a salire ai 125 euro che citava, e mettiamo a disposizione ogni tipo di guanto che possa lì. Noi abbiamo tantissimi portieri che comprano questi tipi di guanti perché magari ci sono fratturati le dita oppure preferiscono evitare di avere degli infortuni e quindi scelgono un guanto più massiccio. E per questo va bene, questo l'abbiamo intuito. L'altra cosa è, tu hai ben chiaro che sei l'unico ruolo, no? Quello del portiere, l'unico ruolo che può aprire portierecalcio.it, perché non è che terzinocalcio.it ha delle cose particolari da vendere, no? Assolutamente, non per questo noi come slogan scegliemmo il numero uno per i numeri uno, perché sapevamo che appunto essendo un ruolo così particolare avevamo bisogno di dare a tanti ragazzi come noi che giocano un punto di riferimento, perché come raccontavo all'inizio, noi giravamo i negozi di articoli sportivi disperatamente cercando qualcosa per vestirci oppure come guanti. La dura vita del portiere, insomma, no? Assolutamente. Senti, noi ti dobbiamo lasciare, grazie ovviamente per la tua disponibilità e soprattutto per averci spiegato che c'è un ruolo particolare nel mondo del calcio che è quello del portiere, ambito tra l'altro, perché sono quelli più ricercati quando organizzi le partite, non ci sono mai portieri, ma anche dai tifosi tra l'altro. Esatto. Senti, grazie, buonanotte. Buonanotte, buona domenica a tutti, arrivederci. Grazie. Intanto ci arriva da Pontedera, non nevica, temperatura 1 grado, saluti da Marco. E forza Genoa. No, forza Genoa non dovevi leggere. Cioè, forza Genoa. È un errore di digitazione, ho sbagliato. Forza Genoa a questo punto, e quindi in questo caso lo teniamo buono. Intanto è finita l'Inter, 3-1 sul Chievo. Ecco, seguiamo allora. Gol dell'1-0. Il fischio dell'arbitro. Se ne va Seymour. Lascia la battuta a Theroux, parte il suo cross a Acerbi. Tutto solo, il pallone che esce di nulla. Jokic approva il cross, pallone che filtra Rigoni. Rigoni, ecco, 1-1. Non mi ricordavo. Puoi fare il riepilogo di tutto quello che è accaduto allora nella partita? Sì, è finita 3-1 la partita. Il gol per quanto riguarda il Chievo, l'avete sentito pochi istanti fa, è quello di Rigoni, mentre l'Inter ha segnato con Cassano, Ranocchia e Milito. Risultato finale 3-1 per l'Inter sul Chievo. Traffico. Dai e vai. Strade in diretta. In arrivo una forte ondata di maltempo con nevicate abbondanti, stop ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate in tutte le regioni del nord e in Toscana, Marche e Umbria. In seguito a questa ordinanza sulla 32 Torino-Bardonecchia code per lo stoccaggio dei tir alla barriera di Salbertran in direzione del Frejus. Al momento nevicate di debole intensità sulle Alpi al confine con la Francia e tra Basso Piemonte e Liguria, neve anche sul basso versante adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia, mentre lungo la 3 Napoli-Salerno attenzione ai tratti ghiacciati tra Salerno e Nocera. Infine code di circa un chilometro per un incidente sul tratto appenninico dell'Autosole tra Barberino e Roncobilaccio verso Bologna. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Grazie agli ascoltatori che ci mandano anche tra l'altro sul tramite SMS al 349-238-6666, ci mandano anche altre informazioni. Qui a Betone, meno 8. Sì, è vero, stavi guardando, è proprio scritto meno 8. Io pensavo cioè, fosse l'autostrada, no, cioè, capito? 8, no, c'è cioè un trattino e un 8, proprio meno 8. Meno 8, strada pulita, cielo stellato, e questo ci riempie di abbastanza di gioia. Non so quanto invece sono felici e allegri quelli Club Chievo di Verona, che è venuto qua fino a Milano per assistere purtroppo a questa sconfitta. Parliamo con il loro portavoce, in questo caso Carlo Flora. Pronto Carlo? Ciao. Vabbè. Allora, qua non so quanto gradi siano sotto lo zero, ma c'è freddo qua. Fa freddo, Ben. Fa freddo, sì, senti, cosa avete fatto per riscaldarvi? Vi siete state bevendo qualcosa? No, freddo. Adesso andiamo a prendere il tè caldo sul nostro pullman. È caldo, adesso abbiamo quegli interessi davanti che ti fanno 3-1, vabbè dai. Comunque tutto va bene dai. Carlo, siamo ancora dentro o stiamo uscendo? No, io sono già uscito, Quindi le previ... no, sono ancora sopra, siamo andati nello rosso noi più di sotto. Vi ha messo sotto? Siamo andati sotto noi, poi siamo andati a portare come il nostro consueto lì al coordinamento dell'Inter, di Chiesa, della Paluani, con le colombe, abbiamo fatto fatto un po' così l'inciuccio, insomma, con gli interisti. Sì, noi tutti gli anni con l'Inter abbiamo preso l'inciuccio. Nel senso buono, assolutamente. Abbiamo buoni rapporti con l'Inter noi. Sì, ho capito. Il risultato, come al solito, ma per il resto va bene, dai. Vabbè, ma tanto voi, cioè, voglio dire, non è che ci tenete abbastanza, ma non così tanto, no? Siete ben piazzati. No. Stiamo bene, queste cose per noi sono le big, queste, capito? Se ci scappa fuori il risultato siamo contenti, sono pazienza e sì. D'altronde è così. Ecco, perché voi fate ovviamente il campionato su? Quale squadra? Facciamo Pescara, il nostro campionato, il Pescara, il Torino, il Siena, il nostro campionato questo qua. Questo lo sappiamo. Inter, Napoli. Sì. Ma voi adesso che avete ben chiaro che quali sono le piccole, no? Perché poi ci sono degli anni in cui c'è le piccole che variano, no? Voglio dire, in questo caso il Palermo è una piccola. Il Palermo era grande, ma è diventata piccola, non sai perché. O che la vogliono farne giù, non lo so. Senti Carlo, quali sono le tre che vanno giù quest'anno? Dai, sbilanciati. Ma penso che sia Palermo, Siena e Genova. E Genova? Ah, ah, Genova addirittura? Attenzione, così butti via così. Sì, da lì, sì, sì. Va bene. Che abbiamo buoni rapporti con Genova, abbiamo, Sì, sì. Senti, penso che sia così, Adesso partite subito oppure dovete aspettare ancora? No, aspettiamo i ragazzi che vengono giù dal terzo anello. Ah, dovete, ah, perché voi siete, avete fatto quelli un po' fighi che siete andati al primo anello rosso, dovete aspettare quelli del terzo anello. Bravo, quello tecnico. Bravo, no, ma è perché, cioè, io pensavo che fossero andati tutti sotto al primo anello. No, invece no, noi... no, magari. Vabbè, no, cioè, insomma, diciamocela, tu sei andato giù, ti sei visto la partita un po' così, insomma, in mezzo. No, si vede bene il primo anello. Sì, beh, ma chi l'avrebbe detto? Va bene, grazie, grazie. A presto, grazie, buon ritorno. Buon ritorno. Grazie mille, ciao. È un po' triste il ritorno della trasferta dopo la sconfitta. Beh, no, dipende, dai, se tu sai benissimo che questa è una grande, chi te frega, no? Ma fai sempre allo stadio con quella speranzella di riuscire a conquistare il punto per quanto riguarda il Chievo, addirittura la vittoria con l'Inter. Luca, devi seguirmi attentamente perché stiamo per andare di nuovo in un punto abbastanza rilevante della nostra serata, anche se siamo leggermente, come dire, lenti nell'approcciarlo, però perché abbiamo fatto saltare, diciamo, già altre due serate, sì, cioè in questo caso, no? Però noi andiamo a parlare direttamente di Tamburello. Sì, ne abbiamo parlato due settimane fa. Lo so, immagino gli ascoltatori che sono in auto, pensa come ha smandato quelli che hanno la neve sotto, cioè, capito? Quello di Genova, no? Tamburello no! Abusalla. Tamburello, non lo voglio sentire! E invece no, noi diamo spazio agli sport minori, Calma, sport minore, il Tamburello, lascia stare che... Diamo spazio agli altri sport! Esatto. Marco, come va? Tutto bene? Pronto Marco? Ah, è caduto di nuovo. Sai, secondo me cos'è stato? È scivolato sulla neve. D'altra volta. Esatto. Cioè, ecco, Marco, adesso poi non ti devi lamentare con noi. Marco Schiesaro, che è appunto il nostro punto di riferimento per quanto riguarda il Tamburello, ci segnalano che Milano Serravalle 1,5 gradi, nevischio lievissimo, strada pulita. Potreste darci un'indicazione precisa? Milano Torino, l'autostrada, mi potreste dare l'indicazione? Ciao Marco, sei tu? Eccomi, sono io. Sei tra eccomi. Noi? Ah, eccoti qua. Allora, dacci gli aggiornamenti di Tamburello, ti dico però che hai un bel 5 minuti, forse un po' più scarsi. 5 scarsi. 5 scarsi per parlare di Tamburello. Allora, intanto discutiamone, l'avevamo lasciato, io ero rimasto al Tamburello indoor. Esatto, il Tamburello indoor. Giusto? Sì, il Tamburello indoor. Sì, avevamo parlato con te di Tamburello indoor o no? No, oggi stavamo parlando di Nigeria e Burkina Faso. No, vabbè, allora è arrivata un'altra telefonata, in questo caso non è il Tamburello. Scusa, ma tutto in questo caso, scusa, è quello della SNAI. È la SNAI a questo punto. Cioè, sì, sono io. Ti pensa il dramma? Noi adesso dobbiamo fare il servizio sul Tamburello e il Tamburello ancora una volta è stato segato. Cioè, in questo caso. Senti, com'è andata lì la serata della SNAI? È andata benissimo, ha vinto ovviamente la favorita, la Nigeria, ha vinto la Coppa d'Africa, grande festa, tantissimi colori, gol al 40° di Mbah. È stata una partita soffertissima, tante munizioni, ma insomma ha vinto il migliore, ha vinto il favorito, insomma. La domanda però sorge spontanea, tu hai promesso champagne a tutti i nigeriani presenti. Bravissimo, ed è proprio questo che stiamo facendo, questo. Stiamo champagne. Aspettando, certo. Io ovviamente è andato a vedere la partita al maxi schermo che abbiamo dislocato, ovviamente non da noi perché lo spazio è quello che è, stiamo aspettando, ma noi fino alle 24 siamo aperti con tutti gli incontri in diretta. Peraltro Nigeria e Burkina Faso che stavamo trasmettendo in diretta si potevano anche scommettere in live, quindi segna gol eccetera. Certo. Comunque bellissima serata. Vabbè, insomma, l'importante è quanta gente c'era alla fine? Dunque 400 da noi e più 350 sono stati dislocati in zona industriale. Quindi oltre 700 tifosi per vedere la Coppa d'Africa, la finale di Coppa d'Africa. Coppa d'Africa che si è giocata quest'anno per non accavallarla poi con i mondiali che si giocheranno l'anno prossimo. L'anno prossimo, quindi abbiamo avuto la Coppa d'Africa quest'anno e l'anno scorso che ha vinto lo Zambia. E ecco, adesso per 4 anni non avremo la Coppa d'Africa. Ecco, ricordiamo che la quota era 2,50 della Nigeria, quindi tutto sommato agli scommettitori gli è convenuto perché deve pagare meno. Sì, mentre... noi abbiamo perso perché il banco ovviamente quando vincono le favorite perdiamo, però certo. Chi giocava la Nigeria qualche giorno fa la beccava a 10 se non a 12. Sì, però scusate, avete portato a casa la Costa d'Avorio. Esatto, abbiamo portato a casa la Costa d'Avorio, eliminata dalla Nigeria. E il Ghana, anche, tra l'altro. È bravissimo, il Ghana. Comunque sì, ben venga, insomma, la Nigeria non è una sorpresa, perché sono comunque no, bravi. No, certo. È una sorpresa, esatto. Più che altro che date lo champagne, diciamo. Ecco, diciamo, no, il rapporto 750 c'è presenze lì per vedere la Coppa d'Africa, quanti nigeriani? Il 98,9%. Sì, veramente più del 90%, perché il Burkina Faso, voglio dire, con tutto rispetto, ma insomma, non abbiamo grandi adepti, ecco, i nigeriani sono tantissimi. Grazie, grazie Marco, è stato bello, a risentirci. A voi, grazie. Ciao, grazie. Di nuovo. Grazie, tante belle cose. L'ultimo, Tarvisio. Tarvisio nevica. Eccolo qua. Tarvisio nevica. Pronto? Antonio, non nevica a Tarvisio. Ma come no? Non nevica a Tarvisio, no. Scusa. Meno 12. Ma non nevica? Non nevica per forza. A meno 12 non nevica, no? Tu ci insegni. Meno 12. Io sono partito da casa, che abito a 60 km da Brno, alle 5. Ah, però. Brno è Repubblica Ceca. Repubblica Ceca. Esatto. Sono passato adesso la frontiera, sono a Tarvisio, meno 12, a casa mia però 30 centimetri di neve e tutto funziona. Come mai che qua in Italia prevista 20 centimetri tutto fermo? Non ho capito. Adesso tutto fermo? No, adesso non esageriamo, diciamo ci sono alcune regioni dove... Infatti tutti i camion, sento la radio perché vi seguo da Graz, perché posso prendervi da Graz, sì. E sento che i camion sono bloccati, dunque no. Sì, vabbè, ma adesso... No. Vabbè, ma noi siamo un paese mediterraneo, un paese caldo, un paese del sole, chi sto paese del sole... Sono anch'io italiano, mica altro. No, ma infatti. Grazie Antonio per la comunicazione. Prego. Tarvisio non nevica. E se non nevica lì, ragazzi, diciamocelo chiaramente. Noi a questo punto dobbiamo salutare e ringraziare Roberto Scaltritti che ci ha seguito al mixer. Ringraziamo Sergio Ferentino in regia. E abbiamo Giorgio De Luca che ha fatto l'assistenza del programma. In redazione Luca Cancellara questa sera dall'esterno, dal freddo esterno dello stadio di San Siro. Luca Gattuso e Sergio Ferentino si avviano verso la Milano Torino, lo diciamo, esatto. Chiaramente tra poco, e quindi può darsi che lì ci sia almeno un po' di sole, qualche cosa del e genere. Fra pochi istanti qui su Radio 24 Möbius di Federico Pedrocchi. Nel frattempo però Strama, un pezzettino di Strama, sì, ce Strama, la portiamo, sì. Andiamo a chiudere con Strama, dai, così sereni, così, dai. Questa chiusura del mercato, che tutti i giocatori che sono rimasti sanno che, biocco, già. Che l'Inter ha bisogno di loro individualmente, sì. E io ho bisogno di loro anche, quindi noi, sì. Ho bisogno di loro sia singolarmente che a livello di collettivo, tutti abbiamo, incontriamoci, cioè. Si deve sentire importante perché fa parte di un progetto, fa parte di una squadra che ha cambiato tanto e che secondo me ha grandi margini. Provate a registrare questo pezzettino, per noi inseritelo così ogni domenica in qualsiasi spazio, è uguale, cioè, potrebbe andare bene per la parola più usata in questi anni nel calcio, qual è? Progetto. Tutti devono fare il progetto. Non ci può stare. Sai cosa facciamo? Lasciamo Stramaccione e lo lasciamo tagliare direttamente da Roberto. Roby, pensaci tu. Vai. Abbiamo dimostrato che siamo un gruppo, siamo una squadra. Pensioni, guida 2013. Dal Sole 24 Ore, in collaborazione con Patronato ACLI, la guida operativa con tutti gli importi di pensione e le altre novità previdenziali in vigore il 1 gennaio 2013. In più un sito dedicato con aggiornamenti normativi, approfondimenti d'autore ed esempi di calcolo. In edicola, con il Sole 24 Ore a 9,90€ in più. Nuova Opel Astra, pensata per sorprendere. Design, intelligenza, motori CDTI 99G fino a 27 km con un litro e GPL Tech, un pieno con soli 29 euro. Nuova Opel Astra, da 15.500 euro, sabato e domenica. Si chiama partita, ma non è mai partita. E poi IVA, come un imperfetto, tipo dormiva. Ti fissa, immobile e burocratica. È dura restare lì fermo quando sei abituato a veder correre il tuo business a un'altra velocità. Quando spazi fra contatti e contratti, perché sai che non sei nato per restare fermo. Questa è Fibra. Corri più veloce. Mega internet e telefono fisso a 29 euro al mese, senza costi di attivazione, per negozio e partita IVA. Fastweb. Immagina. Puoi. Info su fastweb.it 192192 e punti vendita. Sono le 23. GR24.